Kalman in The State in the New Testament, che insomma nel mio inglese vuol dire lo Stato nel Nuovo Testamento, è un libro pubblicato a Londra nel 57. Kalman sostiene che la parola greca che sta per Iscariota ha la stessa origine della parola greca che sta per sicario. Oggi con sicario si intende chiunque uccida o compia altre malvagità contro terzi. Ma nel contesto storico del Nuovo Testamento la parola designava un gruppuscolo d'opposizione al potere dell'invasore romano. Nella storia della guerra degli ebrei contro i romani, del noto bugiardo Flavio Giuseppe, si parla indifferentemente di sicari, di zeloti, o più semplicemente, come in ogni storia che pretenda rispetto per il solo fatto di aver reso favori a chi ha vinto infangando la memoria di chi ha perso, si parla di briganti, più semplicemente. Ora, se Giuda Iscariota allora era un sicario, è presumibile, come sostenne Samuel Brandon in un libro del 67, Gesù e gli Zeloti, bellissimo libro, è presumibile che lo stesso Gesù e buona parte dei suoi apostoli facessero parte del medesimo movimento, e ciò spiegherebbe perché Ponzio Pilato poi abbia deciso di processare Gesù per sedizione. Così Giuda o impersonerebbe la figura del classico pentito, o quella dell'infiltrato, o, perché no, quella di uno più a sinistra del suo capo, tanto a sinistra da giudicare insoddisfacente la strategia antiimperialista di quest'ultimo e da brigare conseguentemente per liberarsene. Quale che fosse il suo ruolo, non gliene è andata bene una. Gesù aveva i suoi informatori. L'ultima volta che sono usciti a cena gliel'ha fatto capire, e poche ore dopo l'hanno trovato impiccato. Il caso venne chiuso come suicidio, e i soldi, quelli che forse erano tornati a chi glieli aveva dati, servirono per comprare il campo del vasellaio e, all'insegna della difesa della razza, per farne un cimitero per stranieri. Il suicidio di Giuda è perfettamente funzionale alla morale dei cattolici. Il rimorso cresce nell'animo del traditore fino a rendergli insopportabile la vita, il peccato macchia e non si torna lindi fino all'espiazione. Se per tutti c'è la confessione, per il povero Giuda non c'è pietà. Nessuno ha mai messo in dubbio né il suo suicidio né che questo fosse da mettersi in rapporto al tradimento. Origene nel suo commentario al Vangelo di Matteo è andato più in là di tutti, riuscendo a sostenere la tesi che Giuda stesse correndo contro il tempo. Aveva capito di doversi ammazzare prima che morisse Gesù, in modo da incontrarlo subito una volta di là, confessargli la propria colpa ed estorcergli una soluzione. Su Giuda sono stati gettati tanti stigmi da far sì che il suo nome significhi il tradimento per antonomasia. Nessuno battezza con il suo nome un figlio, per esempio. Nella storia della letteratura conosco soltanto il Giuda l'Oscuro, pubblicato da Thomas Hardy nel 1895, che è la storia di un muratore incerto e sfortunato, che guarda caso si chiama proprio Giuda, che conduce una brutta vita che lo condurrà abbastanza presto ad una brutta morte. Al nome taluni associano ancora oggi influssi nefasti, e non mancano le interpretazioni iettatorie di ogni episodio in cui in un modo o nell'altro faccia capolino. Così i giornali riferiscono che l'attore Carl Anderson, dopo 30 anni, decide di lasciare il ruolo di Giuda nel famoso musical Jesus Christ Superstar. Odio il ruolo di Giuda, gli fan dire, come se la persona che interpreta il personaggio potesse risentire di un copione ideologicamente ostile. E così capita anche che un poveretto mesi or sono rimanga impiccato per davvero durante un pubblico spettacolo di drammaturgia popolare. Stava interpretando il ruolo di Giuda nella Passione di Cristo e riscuoteva tutta l'ammirazione di turisti e compaesani per la vena realistica con cui assolveva il proprio compito. Nel cenacolo che Leonardo da Vinci dipinse tra il 1495 e il 1497 nel refettorio di Santa Maria delle Grazie in Milano, Giuda è il quarto da sinistra, in piedi dietro Pietro, dopo Bartolomeo, Giacomo il minore e Andrea. Ha una mano sulla spalla di un Giovanni che sembra appena uscito da un parrucchiere di via Monte Napoleone e gli sta dicendo qualcosa che gli altri non debbono udire. C'è dunque un che di infido, ecco, c'è già un che di infido nel personaggio, quantomeno la rappresentazione di un suo distacco dal momento comunitario e dall'implicito patto di partecipazione fra i presenti. Nemmeno Leonardo, insomma, è riuscito ad evitare il peso ideologico che la tradizione ha caricato sulle spalle del personaggio. Anche Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, nel 1594 ha dipinto una ultima cena per la chiesa di San Giorgio Maggiore in Venezia. La sua logica narrativa, a dire il vero, è completamente diversa da quella di Leonardo. Dove c'era l'unità sociale dell'occasione, qui c'è dispersione fino all'indifferenza, come se dopo l'unanimità del Comitato Centrale fossimo già arrivati alle correnti. Un minimo di attenzione ad un Cristo in piedi gliela danno sì e no in tre. A sinistra un altro in piedi attrae l'attenzione degli ultimi due, all'estrema destra c'è un altro terzetto dove ferve il dibattito, uno sta pensando poi seriamente ai casi suoi e un altro infine in piedi dà le spalle alla tavola. Pelo scuro e barbetta luciferina mi inducono a pensare che si tratti di Giuda. Il dodicesimo apostolo o si è travestito da buffone e sta accovacciato innanzi al tavolo o manca, è andato in bagno. Tutti intorno si danno poco misticamente da fare, un cane, un gatto e tre fanciulle tre. Accomuna le due ultime cene, ecco, il fatto che Giuda non abbia un posto a sedere. Il che avrebbe messo a disagio chiunque. Narrano le cronache che Elisabetta, regina d'Inghilterra, abbia in questi giorni visitato Milano e che non abbia voluto negarsi la visione di ciò che rimane dopo i tanti reiterati insulti del tempo e degli uomini, di ciò che rimane dell'ultima cena leonardesca. Narrano le medesime cronache che alle autorità esperte presenti al suo servizio la regina abbia chiesto di indicarle fra le figure dipinte qual è Giuda. Non sembrano più questi i tempi in cui i sovrani si facevano accompagnare dagli assaggiatori, temendo veleni e intrighi di successione, ma una sorta di affinità tematica permane. Su 13 persone da individuare, facciamo 12 attribuendole una perspicacia regale, su 13 persone da individuare, o su 12 persone da individuare, ne ha scelta una. una non a caso, quella che in qualsiasi gruppo umano si presenti innanzi, beh, è quella che è bene individuare per prima.